30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Dopo un tentativo fallito nella scorsa primavera, l'Iran ha lanciato con successo il suo primo satellite per telecomunicazioni. È accaduto all'inizio della settimana ed è necessario precisare che non era iraniano solo il satellite, ma anche il lanciatore, il razzo, insomma, di produzione appunto iraniana. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, il nostro spazio del fine settimana dedicato ad approfondire una delle notizie che corrono veloci, forse troppo veloci, nel nostro panorama informativo. Io sono Gigi Donelli, con me oggi c'è Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene e che ricorderanno tra le molte cose per averci raccontato in diretta da Baghdad l'attacco americano dell'ultima guerra che mise sì fine al regime di Saddam Hussein, ma non certo ai problemi di quel paese. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Dunque, lanciare un satellite in orbita terrestre è ancora oggi, nel 2009, un esercizio riservato a un clan molto ristretto di paesi. Prendiamo per esempio l'Italia. L'Italia stessa è una potenza economica, satelliti ne abbiamo messi in orbita, ma mai abbiamo costruito e lanciato, perché mettere in orbita un satellite per le telecomunicazioni con un razzo proprio di fatto implica l'utilizzo degli stessi strumenti con cui si fa la guerra nucleare. Allora, la reazione a questo lancio è stata di preoccupazione in molti paesi di Occidente. Beh, non c'è dubbio, perché il lancio appunto del satellite ha fatto intuire, fa intuire molto facilmente che l'Iran ha migliorato notevolmente le proprie capacità balistiche, cioè l'Iran ovviamente oltre che in grado di lanciare un satellite è in grado probabilmente anche di lanciare missili contestate, anche magari nucleari o comunque missili a lunga gittata, in ogni caso, che lo rendono un paese estremamente ben armato nell'ambito della regione, e certamente solleva innanzitutto le preoccupazioni di Israele, che nei confronti dell'Iran sempre, e dell'armamento iraniano ha sempre puntato il dito. Naturalmente questo satellite, come lo stesso presidente Ahmadinejad ha detto, ha un obiettivo almeno pubblico di uno strumento di pace e di telecomunicazioni, un obiettivo assolutamente legittimo per un grande paese. Ma non c'è dubbio, legittimo ovviamente dal punto di vista iraniano, perché un satellite di telecomunicazioni oggi è indispensabile. Dobbiamo ricordare che oggi la rete di comando, dei centri di comando militari ma anche civili, passa ovviamente attraverso le telecomunicazioni e soprattutto attraverso le telecomunicazioni satellitari. Oggi chi padroneggia la tecnologia satellitare è in grado di padroneggiare le telecomunicazioni sia in entrata che in uscita, ed è questo è molto importante. Ma soffermiamoci anche a questo lancio del satellite, no? A questa striscia luminosa che ha squarciato la notte iraniana. Ha squarciato la notte iraniana, ma anche quella di una regione dove intorno all'Iran ci sono paesi anche loro molto ben armati. Il confinante Pakistan è una potenza nucleare, l'India è una potenza nucleare, Israele, che comunque non confina, ma è ovviamente un attore fondamentale, è una potenza nucleare. Dall'altra parte c'è tutta l'ex Unione Sovietica, è inutile dire che cosa rappresenti dal punto di vista militare. Quindi si tratta di un altro paese che entra, come dire, nel club dei paesi ben armati di quella regione. E senz'altro possiamo anche aggiungere che di fatto la maggiore concentrazione, se non numerica, ma di testate e di capacità militare appartenenti a nazioni diverse tra loro, si trova appunto in quella parte del mondo che tu ci hai descritto. Lanciare ancora una volta un satellite significa, e costruirlo dunque, significa avere raggiunto uno standard tecnologico ed economico in vari settori. Ora, l'immagine di questo grande paese, un paese che ha quasi 70 milioni di abitanti, non è però quella di un'economia forte, se lasciamo, diciamo, da parte peraltro l'importantissimo elemento degli idrocarburi. Allora, l'Iran che paese è dal punto di vista economico? Beh, dunque, distinguiamo l'aspetto puramente economico riguardante la crescita, la distribuzione della ricchezza, da quello per esempio tecnologico. Dal punto di vista tecnologico, come si vede, il paese riesce a produrre delle eccellenze. Il lancio del satellite con un proprio lanciatore lo dimostra. C'è poi la tecnologia nucleare che, come sappiamo bene, preoccupa tutta la comunità internazionale. L'Iran riuscirà a produrre energia nucleare soprattutto con l'aiuto dei sovietici a Bushehr, questo è il nucleare civile. Poi c'è nel mirino internazionale gli impianti di Natanz che potrebbero essere destinati a uso militare, ma qui bisogna dire che ormai il confine dell'uso civile e militare nel nucleare è molto sottile. Quando ci si è impadroniti della tecnologia civile del nucleare, poi il passo verso quello militare poi non è così lungo, no? Quindi dal punto di vista tecnologico comunque il paese produce delle eccellenze che sono risultato della ricerca interna ma anche della collaborazione tecnologica con altri paesi. Come che l'Iran è riuscito per esempio a produrre una tecnologia balistica di questo genere? Non c'è dubbio che i rapporti con la Corea del Nord, i rapporti con determinati scienziati pakistani che hanno contribuito negli anni a fornire agli iraniani delle tecnologie o comunque delle informazioni tecnologiche, la stessa capacità dell'intelligence spionistica iraniana che riesce a procurarsi queste informazioni, hanno contribuito a dare al paese delle eccellenze appunto di tipo di stampo tecnologico. E l'economia reale? Un'altra cosa. La vita quotidiana? La vita quotidiana. Dunque, il paese ha delle industrie, anche industrie importanti. Nel 2008 l'Iran ha prodotto per esempio 1 milione di auto. Ci sono due grandi fabbriche, la Iran Khodro e la Pars, che hanno delle joint venture con le società internazionali. Hanno grandi impianti petrolchimici, in cui sono coinvolti anche gli italiani, la più grande acciaieria del Medio Oriente, quella di Mubarakè, anche questa costruita con l'aiuto e col sostegno di industrie occidentali e italiane. Quindi ci sono impianti industriali forti. Un altro conto però è vedere quanto in realtà del prodotto interno lordo viene fatto dentro al paese al di fuori del petrolio, e questo è molto poco. 80-85% dell'export è fatto dal petrolio, il 60% del PIL ruota intorno al petrolio. Questo dunque per quanto riguarda la forza interna di un paese, ma vediamo un momento di parlare del rapporto tra l'Iran e gli altri, e inevitabilmente parliamo del rapporto tra l'Iran e gli Stati Uniti. Da poche settimane un nuovo presidente, una figura carismatica, una figura che ha subito rivolto un messaggio di disponibilità e dialogo, in particolare con il mondo musulmano. Ma sentiamo in questo estratto cosa pensa Barack Obama, questo era il 18 maggio dello scorso anno, quindi un candidato alla presidenza dell'Iran. Iran, Cuba, Venezuela, these countries are tiny compared to the Soviet Union. They don't pose a serious threat to us. Ecco, diceva Barack Obama, Cuba, ma anche l'Iran, la Corea del Nord, sono paesi piccoli, non rappresentano un pericolo per gli Stati Uniti. Questa sua uscita fu pesantemente criticata e soltanto 3 giorni dopo, in Montana, cambiò la sua versione. Lo sentiamo. Iran is a grave threat. It has an illicit nuclear program. It supports terrorism across the regions and militias in Iran. L'Iran è una grossa minaccia a un programma nucleare, dunque esattamente ciò di cui ci parlavi pochi istanti fa, Alberto Negri. Insomma, qual è il vero sentiment di Obama nei confronti dell'Iran? Probabilmente difficile da definirsi, ma quantomeno dimostra un po' anche la difficoltà nel gestire questo dossier, che peraltro è fondamentale. Paradossalmente tutte queste due risposte sono valide, quelle che ci ha dato Obama. A 3 giorni di distanza l'uno dall'altro, lo ricordiamo. L'Iran non è un grande nemico, non è una minaccia, certamente, come può l'Iran minacciare una superpotenza come gli Stati Uniti? Impossibile. Però allo stesso tempo è una minaccia. La realtà vera è che c'è un conflitto di natura politico e ideologica tra l'Iran e gli Stati Uniti, che sappiamo bene e vedremo risale al 79, quando fu occupata l'ambasciata americana a Teheran. Soltanto successivamente però questo conflitto ideologico è diventato anche un conflitto militare, e l'iniziativa la presero gli americani sostenendo Saddam Hussein nella guerra di 8 anni contro l'Iran stesso. In quella stessa guerra però gli Stati Uniti fecero anche accordi segreti con l'Iran stesso, il famoso scandalo Iran-Contra, cioè fornirono di armi l'Iran perché non venisse sconfitto in realtà troppo duramente dagli iracheni di Saddam. Cioè il rapporto è molto ambiguo, Un rapporto ambiguo che ha una lunga storia, perché in realtà sappiamo benissimo che l'Iran non nasce, come si diceva, anti-americano. Lo Shah per lungo tempo fu un grande alleato degli Stati Uniti, anzi il pilastro insieme a Israele, e forse ancora più di Israele, del Golfo Persico, no? E della regione del Medio Oriente. Quindi era importante per gli Stati Uniti, era un grande alleato, e immediatamente all'indomani della rivoluzione non era scritto che la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti dovessero confliggere per forza. Questo è avvenuto successivamente, attraverso quello che è stato un conflitto ideologico che ha portato anche in Iran una sorta di colpo di Stato con la vittoria dell'ala più radicale della rivoluzione. Ecco, questo è dunque lo spartiacque, il 1979. Tu di fatto ci hai ricordato come addirittura negli anni 30, quando la famiglia appunto dello Shah, tra l'altro, cambiava anche ufficialmente il nome, quella che era la Persia, e ci fu l'autorizzazione a chiamarlo Iran appunto nella dizione, diciamo, più legata alla popolazione, era di fatto un solido punto di riferimento per il mondo occidentale, in quella fascia del mondo che non è Medio Oriente, non è ancora Asia, forse è tutte e due, nello stesso tempo è un paese musulmano ma non arabo, insomma, una complessità formidabile. Nella seconda parte di questo nostro appuntamento cercheremo di ripercorrere anche quelle che sono le tappe di questo rapporto e qui mi piace anche citare e ricordare che proprio nel libro che hai pubblicato recentemente, Il Turbante e la Corona, l'Iran 30 anni dopo. Bene, 30 anni dopo che cosa? Esattamente quegli eventi corrispondono anche alla tua storia personale di inviato, perché 30 anni fa hai cominciato a frequentare quel paese che poi, insomma, non hai più lasciato. Spesso accade, i paesi più complessi sono anche quelli più affascinanti. Credo che ci potrai dare anche qualche spunto in proposito. 30 minuti in cronaca. Ancora una buonasera da Gigi Donelli, questa sera in compagnia di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per parlare della Persia, dell'Iran, per parlare di questo paese formidabile, importante, questa vera e propria cerniera tra mondi, di cui negli ultimi anni spesso sentiamo parlare in termini di conflittualità, di tensione che riguarda soprattutto i rapporti con Washington. Bene, non è sempre stato così, l'abbiamo ricordato, forse il momento, non forse, il momento dello spartiacque è stato il 79, quindi la rivoluzione, e poi il 4 novembre, pensate, il 4 novembre è una data così importante per gli americani, del 79, quando un gruppo di studenti assalta l'ambasciata americana di Teheran, prende in ostaggio 52 cittadini degli Stati Uniti e li trattiene per 444 giorni. Bene, lì accade qualcosa, inizia ad accadere qualcosa di probabilmente irreparabile. Sì, di irreparabile e anche di molto interessante. Tra l'altro nel mio libro riporto le testimonianze di quasi tutti i protagonisti di quell'epoca, degli studenti, allora ventenni e che oggi ormai sono degli ultra cinquantenni, ma anche dell'ex ministro degli esteri di allora, Ibrahim Yazdi, che mi raccontò, tra l'altro, che quando Khomeini seppe che gli studenti avevano occupato l'ambasciata americana, sbottò dicendo: ma chi sono questi? Cosa vogliono? Prendeteli a calcioni e mandateli via. Poi cambiò idea quando nel pomeriggio fece un giro nel centro della città, passò davanti all'ambasciata, vide migliaia di studenti e lì capì che poteva far prendere una nuova direzione alla rivoluzione. Fece un discorso radiofonico in cui disse che loro, gli studenti, stavano facendo una seconda rivoluzione ancora più importante della prima. Aveva capito che manovrando gli studenti avrebbe potuto far trionfare l'ala radicale più islamica della rivoluzione stessa. Avrebbe potuto in qualche modo anche unire due mondi assolutamente distanti, perché noi erroneamente pensiamo che gli ayatollah, i giovani iraniani, possano essere un tutt'uno, ma non lo erano affatto. No, tra l'altro proprio nella cerchia degli studenti che erano con Khomeini in esilio a Parigi ancora nel 78 e che rientreranno con lui il primo febbraio del 1979, quasi tutti erano studenti che avevano studiato in America. Ibrahim Yazdi, il ministro degli esteri che citavo prima, studiava farmacologia nel Texas. Il ministro della difesa, Mustafa Shahbaz, era, udite udite, un ingegnere della NASA. E quasi tutti venivano dalle grandi università come Berkeley. L'unico che aveva studiato in Francia era Bani Sadr. Nel primo governo iraniano della rivoluzione c'erano 5 ministri col passaporto americano. Questo nel 79. Nell'80 le cose, diciamo, peggiorano perché uno storico rivale regionale, cioè l'Iraq di Saddam Hussein, attacca l'Iran e lo fa con un concorso di forze apparentemente inarrestabile, quello dell'Occidente, sostanzialmente. L'attacco del 22 settembre 1980 in pochi giorni porta alla conquista di Khorasan e di gran parte dell'Iran meridionale. Praticamente sembra che l'Iran, preso dalle temperie rivoluzionarie, potesse cadere da un momento all'altro, ma lì c'è la grande reazione nazionalista. Non solo Khomeini manda sul fronte migliaia di giovani ragazzi con al collo le chiavi del paradiso di Allah, che si muoveranno come martiri e moriranno a migliaia, centinaia di migliaia sul fronte, ma persino gli anti-khomeinisti, come i piloti dell'aeronautica dello Shah, vorranno combattere contro il nemico storico arabo, perché ricordiamolo, l'Iran è una sorta di isola, è un paese non d'arabo, è un paese persiano che parla una lingua di antiche origini, che ha più vicinanza con l'indiano e col sanscrito che non certamente con l'arabo, e lo stesso Islam è un Islam diverso, non è quello sunnita della maggioranza del mondo musulmano, ma quello sciita, cioè la versione iraniana dell'Islam. Insomma, la grande famiglia musulmana è spaccata e l'Occidente fa la sua scelta di campo, lo fa in maniera precisa armando l'avversario, armando quello che allora appariva, come tante volte la storia ci ha insegnato, un leader più affidabile, appunto Saddam Hussein. E certamente l'appoggio a Saddam Hussein è stato decisivo in qualche modo. Saddam fu armato dall'Occidente, ma anche dall'Unione Sovietica. Dall'Occidente ebbe un ruolo importante non solo gli Stati Uniti, ma anche la Francia, soprattutto in particolare, e fu finanziato da tutti i paesi arabi del Golfo, che naturalmente vedevano come il fumo negli occhi l'avanzata dell'Islam e del messaggio della Repubblica Islamica di Khomeini. Insomma, l'Iran si consolida, il regime di fatto acquisisce quella popolarità che appunto nel 79 non avrebbe potuto avere. Poi compiamo un balzo, perché di fatto siamo arrivati al 2009, e in questo 2009 alcune posizioni di Ahmadinejad e dei vertici iraniani appaiono persino antistorici. La ricerca di conflittualità estrema con Israele, la determinazione attraverso frasi come quella legata alla cancellazione dello Stato di Israele. L'Iran sembra quasi cercare sistematicamente il ruolo del cattivo. Ma che cosa vuole l'Iran? Diciamocelo francamente, l'Iran vuole una sorta di riconoscimento di leadership da superpotenza regionale. Ambisce a questo riconoscimento perché ha avuto un ruolo importante nella storia. Nel 1941, quando Reza Shah fu estromesso dagli americani, al suo posto fu messo il figlio Mohammad Reza, l'Iran diventò il paese più importante per la sconfitta del nazismo e del Terzo Reich, perché fu attraverso l'Iran che arrivarono i grandi rifornimenti all'Unione Sovietica che permisero la resistenza dei sovietici a Stalingrado. Tant'è vero che nel 1945 i russi non volevano andarsene dall'Iran e il primo episodio della Guerra Fredda si verifica proprio lì. Sarà un generale americano con un nome conosciuto da tutti noi, Norman Schwarzkopf Senior, padre dello Schwarzkopf della Guerra del Golfo, che poi caccerà i sovietici e fare in modo che l'Iran resti nel campo occidentale. Oggi l'Iran sembra nel campo avverso, ma in realtà chiede dall'Occidente quel riconoscimento che forse non aveva avuto neppure completamente ai tempi dello Shah. Gli americani gli diedero gli strumenti per fare il nucleare, ma non gli diedero l'arma nucleare. Gli diedero un grande esercito, ma non gli diedero le chiavi per poter veramente sfruttare e manovrare questo esercito. Pensate, il più potente del Medio Oriente, e in pochi mesi lo Shah se ne deve andare in esilio. Quindi c'è da capire anche questo: l'Iran minaccia, ma si sente anche minacciato. Già, l'Iran si sente minacciato. Questa è sicuramente una prospettiva che tu hai avuto modo di cogliere in 30 anni di esperienza in questo paese. Come racconti, hai conosciuto l'Iran appunto della rivoluzione e lo frequenti da allora con assiduità. Sì, arrivai per la prima volta nell'estate del 1980, mi portò un mio amico iraniano che studiava ingegneria a Milano, Mohammed. Attraversammo in treno tutti i Balcani, arrivammo dopo 60-70 ore di viaggio a Istanbul, poi da lì con un visto riuscimmo a prendere un visto al consolato di Istanbul e attraversammo in corriera tutta la Turchia e poi l'Aimentor Road, arrivammo dall'altra parte a Tabriz e infine a Teheran. dove stetti non molto, un paio di settimane, e tornai indietro il 2 agosto, nella notte tra il 2 e 3 agosto. Quel giorno Mohammed mi riaccompagnò alla stazione, aveva in mano un regalo per me, perché il 3 agosto, nella notte del viaggio, avrei compiuto gli anni. Quella fu l'ultima volta che lo rividi. Mi tocca chiederti perché. Beh, immagino e credo che purtroppo Mohammed sia finito in quel grande massacro che è stata la rivoluzione e che poi fu anche la guerra, perché da lì a un mese scoppiò il conflitto e gli iraniani morirono a centinaia di migliaia, 600.000, sullo Shah Telaraab per difendere la loro patria. Questo accadeva dunque 30 anni fa. Come ho detto, ci sono molte storie, molti racconti, molti personaggi, dunque non posso che invitare gli ascoltatori a leggere Il Turbante e la Corona, che è scritto appunto da Alberto Negri, Iran, 30 anni dopo. Ma vorrei concludere però con te. Tu racconti, come dire, con un'empatia col popolo iraniano di quelle che sono le loro aspettative, il loro desiderio di riconoscimento. Poi però arrivano queste piccole notizie di agenzie di cronaca che ci lasciano perplessi. L'ultima è per esempio quella sulla rappresentativa americana di badminton, uno sport che onestamente fatico persino ad individuare, ma che insomma vengono invitati a Teheran, questo accade pochi giorni fa, si presentano per un torneo, non accade da molto tempo, e improvvisamente proprio sulla soglia del paese vengono fermati. Aggiungo, il presidente della federazione di questo sport, che evidentemente è molto popolare, in Iran si scusa in maniera pubblica, in maniera formale. Eppure tutto questo appare incomprensibile a noi. Allora, se un uomo, il presidente di una federazione, non riesce a far entrare degli atleti amici nel proprio paese, chi controlla questo paese? Sul badminton posso dire con sicurezza che è uno sport molto bello, perché viene giocato con la racchetta e un volano, con scambi frenetici tra due coppie di avversari. Sul fatto che sia stato proibito questo ingresso della rappresentativa americana dimostra, e la reazione poi molto dispiaciuta del capo della federazione di badminton iraniana dimostra una cosa, cioè in Iran c'è qualcuno che ordina, ma ci sono molti che obiettano agli ordini che vengono emanati. Questo significa che c'è un centro di potere forte che oggi è rappresentato da Ahmadinejad, dai cinquantenni, dall'ala militare, dei Pasdaran, delle guardie della rivoluzione, ma c'è anche una parte consistente del paese che non condivide queste scelte radicali. A giugno elezioni. A giugno elezioni, 12 giugno, Ahmadinejad, come sappiamo, è candidato certo, sta per dare probabilmente anche il suo assenso anche l'ex presidente Khatami, portabandiera dei riformisti, che è stato presidente per 8 anni, dal 1997 fino appunto al 2005, quando ci fu l'ascesa di Ahmadinejad. Sarà una lotta interessante e dagli esiti forse non del tutto scontati. Io ringrazio Alberto Negri, naturalmente un grande paese, una grande storia non può essere certo esaurita in mezz'ora, ma quantomeno abbiamo cercato di darvi alcune indicazioni, magari per andare oltre le apparenze della cronaca. Ringrazio anche Filippo Aureggi in regia, 30 minuti in cronaca lo ritrovate, lo potete riascoltare come tutti i programmi di Radio 24 su radio24.it. Non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana.